Virgen Madre, io prometo prezzo continuo non sono. Si quanto scappa siervo moras, non serate lui prometo. Io triste, io fretto tambien, en saliendo deste lado, ir descalzo a Santiago, huyendo a Jerusalén, huyendo a Jerusalén. Signore Montserrat, Signore Montserrat.